Agli occhi di sirena, il fuoco in ogni vena, è come una catena che si incatena con la passione. Non è una princesita, neppure una psichita, però maciariolita vuol dir la vita, la seduzione. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh maciariolita? Se mi guardi tu non resisto più, ti vorrei baciare. Tu m'attiri a te come può attirare una calamita. Se ti stringo un po' tu rispondi no, non mi lascio amare. Io non so capir, tu mi fai morir se mi guardi appena. Fai tremare il cuor pur al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh maciariolita, pure il toro ahimè ti sospira, olè, morirò per te. Quando la notte muore, dal suo balcone in fiore, la strada dell'amore con un sorriso ti insegnerà. Se al tango poi ti invita, suona la chitarrita, e nella comparsita maciariolita ti avvincerà. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh maciariolita, se mi guardi tu non resisto più, ti vorrei baciare. Tu m'attiri a te come può attirare una calamita. Se ti stringo un po' tu rispondi no, non mi lascio amare. Io non so capir, tu mi fai morir se mi guardi appena. Fai tremare il cuor pur al toreador che va nell'arena. Chi lo sa perché, chi lo sa cos'è, oh maciariolita. Pur il toro ahimè ti sospira, olè, morirò per te.